Senti, oggi chiuderei, se sei d'accordo, con questa curiosità diffusa proprio da Sky, dai tuoi cugini, proprio da Sky Sport Inghilterra, che ha ricavato dai siti ufficiali, non credo sia andato a misurare, insomma, questa vecchia storia dei campi più larghi, dei campi più lunghi, eccetera. Allora, secondo Sky Sport Inghilterra, risulta anche dai siti ufficiali che il Camp Nou è regolarissimo, e cioè 105 metri per 68 e quindi è in pieni parametri UEFA, mentre invece Stamford Bridge è 103, quindi 2 metri meno per 67, un metro in meno anche di larghezza. Allora si sono divertiti a misurare i metri quadrati di differenza, sono 239 metri quadri. È un bel bilocale ampio, facciamo anche con i tripli servizi e si domandano gli inglesi se questi 239 metri quadri in più saranno un problema per difendere l'1-0 stasera. Ma secondo me sono stati un problema per il Barcellona all'andata in generale. Stamford Bridge a occhio è più piccolo del Camp Nou, ma non perché sono più piccole le tribune, perché lì ci arriva chiunque, ma la netta sensazione, ti ripeto, a occhio. Poi non dobbiamo farci tradire dalle telecamere da questo punto di vista, perché dipende molto da come vengono inquadrate le partite.